E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, sono le 15:05 di questo ultimo giorno di agosto, 31, oggi mercoledì 31 agosto del 2011 ovviamente, ed è così terminata perlomeno dal punto di vista diciamo del calendario, si dice che termina il periodo delle ferie, delle vacanze, dell'estate, in realtà il caldo continua, oggi è caldissimo e le previsioni dicono che anche i prossimi giorni saranno caldi, ma il problema non è questo, non è che parliamo di meteorologia, parliamo di carcere, che però ha a che vedere con la meteorologia, nel senso che è comprensibile anche per chi non ha mai varcato per sua fortuna quei cancelli, i cancelli di un carcere, quando fa caldo o in quelle condizioni di sovraffollamento, soprattutto di ristrettezza, che si vivono nelle celle, quindi da detenuti o da detenute, chiaramente la sofferenza si accentua di molto, il malessere di gran lunga. E dunque noi in apertura, oltre mandare gli auguri di riconquistare al più presto la libertà per tutti e tutte, sia coloro che ci ascoltano, sia anche coloro che non ci ascoltano, perché non ovunque arriva questa voce, nel senso non arrivano questi microfoni e quindi arrivano sì e no soltanto nella realtà della provincia di Roma. Bene, iniziamo appunto, oltre gli auguri che facciamo sempre più calorosamente, come diciamo, di riconquistare la libertà, intanto vediamo, ci sono, ogni tanto capita qualche notizia, in realtà sono notizie prese dai giornali, quindi probabilmente ci possono essere state anche altre, come dire, ripristino di libertà di cui i giornali non hanno dato notizia. Però ne abbiamo due di questi ultimi giorni, proprio del 30 agosto, quindi di ieri, sono uno da Bari, uno da Torino, quindi attraversando la penisola, uno è riuscito, una riconquista di libertà, quindi un'evasione, una liberazione è riuscita, un'altra no. Vediamo allora la prima, Bari, la leggiamo perché è un'agenzia ANSA. E l'uomo condannato aveva già demolito la base di cemento. Allora, il titolo è "Lenzuolo pronto, sventata l'evasione di un detenuto". Aveva già demolito la base di cemento della finestra e preparato la fodera del materasso per calarsi dalla finestra. Ed era, e questo, come vedete, un lavoretto preciso, a regola d'arte, come si fa. Precisa anche la definizione, perché normalmente si dice lenzuolo, uno annoda il lenzuolo per calarsi dalla finestra, così si scrive ovunque, anche noi diciamo così perché è un modo di dire. In realtà i detenuti, le detenute che hanno provato o sognato o provato qualche tentativo di evasione sanno che il materiale migliore per fare la corda con cui si cerca di calarsi dopo aver diciamo trovato il modo di passare le sbarre della finestra è quello della fodera del materasso. Il materasso, che è un pezzo di gomma piuma stoppaccioso, schifoso, che viene appunto rivestito con una stoffa molto dura, con un cotone molto duro, e quello è molto più duro dei lenzuoli e può essere più adatto a fare la famosa corda con cui ci si può calare. Un lavoro fatto bene, oltre che appunto, come dice giustamente anche l'ANSA, riconosce nel titolo, ha messo lenzuolo, poi però ha dovuto precisare che la corda era stata preparata con la fodera del materasso, che abbiamo detto è un materiale molto più duro e consistente per fare un'eventuale corda, e va intrecciata più volte per farne una corda per poi calarsi dalla finestra. Non potendo segare, evidentemente non aveva un seghetto per segare le sbarre della finestra, che cosa ha fatto questo ingegnoso detenuto? Ha rotto la base della finestra, la base dove sono diciamo dove sono inserite le sbarre, evidentemente non era di un cemento molto forte, altrimenti sapete, per guadagnare di più le ditte che fanno, le imprese che fanno le carceri, insomma, essendo come carceri d'oro, appunto qualche cosetta, a volte qualche smagliatura c'è. Lui ha provato che la base dove appunto vengono annegate le sbarre, dove vengono contenute le sbarre, non era proprio di un cemento molto duro, si è cominciato a scardinare la base di questa finestra e è riuscita a scardinare in modo tale che le sbarre non tenessero più dentro e da lì riusciva a partire. E purtroppo è stata sventata questa sventata nel carcere di Bari, l'evasione pianificata, non era un governo, comunque è organizzato da un detenuto calabrese, qui dice pericolosissimo, vabbè, condannato eccetera eccetera, questo non ci interessa. E aveva preso una staffa di ferro, che è quella che regge il termosifone, con questa l'aveva usata per demolire appunto la base di cemento, che non era un gran cemento, dell'inferiata della finestra. Inoltre aveva preparato la foto del materasso per calarsi dalla finestra. L'intenzione era quella di togliere del tutto l'inferiata e fuggire durante la notte, scendendo l'altezza di 3 metri. Però durante la perquisizione straordinaria della sua cella, gli agenti sono accorti del dai, vabbè, comunque è saltato tutto. Invece ne è riuscita un'altra a Torino, detenuto finge un malore ed evade, fuggendo dall'ospedale. Nel pomeriggio di oggi, 32 anni, in carcere a Torino, è fuggito mentre era all'ospedale torinese delle Molinette per una visita medica. E vabbè, questo è i due fatti che volevamo raccontavamo, perché il problema. Il problema, ora l'affrontiamo seriamente, quello del carcere, il sovraffollamento di questo piagnisteo che più va avanti più non ci convince, parliamo di quello dei giornali, dei politici, dei parlamentari, dei funzionari, tutti a piangere su questo sovraffollamento del carcere, però la cosa non ci convince e adesso vi racconteremo perché. Yeah. E allora, dicevamo, non ci convince tutto questo piagnisteo. Piagnisteo ci riferiamo al fatto che d'estate, probabilmente perché i giornali hanno poco altro da scrivere, anche se quest'estate è stata abbastanza calda, la crisi, la manovra, le rivolte in gran parte del mondo, comunque è normale che d'estate politici, ci sono alcuni politici, per esempio i radicali, in maniera del tutto, come dire, in buona fede, no? Fanno le loro visite al carcere, a volte ci va anche il ministro della giustizia o il direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, del DAP, insomma fanno la visita al carcere, è un po' un rituale, come a Natale, a Pasqua e a Ferragosto si fa la visita al carcere. E quest'anno tutti a lamentarsi perché in carcere, nel carcere italiano le condizioni sono tremende, tutti, chi propone una cosa, Pannella ha fatto lo sciopero della fame lungo, ha proposto anche delle cose valide come un'amnistia, un'amnistia per anche non solo per far uscire un po' di gente dal carcere, ma anche per alleggerire il carico di cause pendenti presso i tribunali e che intasano e che quindi non permettono nemmeno, laddove ci fosse, non ne siamo sicuri, diciamo, la volontà di dare da parte, per esempio, dei magistrati di sorveglianza le misure alternative a chi ne ha raggiunto già la condizione. Tantissimi detenuti e detenute sono in condizione di accedere alle misure alternative previste dalla legge, quindi del tutto in regola all'interno delle regole e delle leggi date fatte da loro signori, tuttavia non vengono ammessi alle misure alternative che sono la semilibertà, l'affidamento in prova ai servizi sociali, la libertà condizionale ed altro, perché dicono, uno è che è vero, gli uffici di sorveglianza, i tribunali di sorveglianza sono intasati da tantissime domande perché tantissimi sono i detenuti e le detenute e dunque ci mettono molto tempo. Per esempio a Roma sappiamo che se tu presenti un detenuto o una detenuta presenta una domanda per una di queste misure alternative, la presenta oggi, se gli va bene viene discussa fra 7-8 mesi. Quindi pensate, nel frattempo può darsi che ha pure finito la condanna, quindi diciamo laddove l'accesso alle misure alternative dovrebbe essere pressoché contemporaneo alla maturazione del tempo, no? Ha raggiunto il tempo in cui può essere ammesso, c'è da fare velocemente le pratiche, no? La verifica, tutto quello che è previsto dalla legge, poi, e se passano 7-8 mesi è chiaro che vabbè. E poi c'è anche una non volontà dovuta alla campagna stampa fatta da destra e da sinistra, è tutto un manicomio. Ecco, giustamente quindi la proposta era giusta, corretta, però poi quello che manca in tutti questi, anche in quelle cose diciamo più corrette, non è assolutamente corretto invece quello che hanno detto i ministri, i parlamentari, la gran parte dei politici, perché hanno detto è un disastro queste carceri, però non si può fare niente. Pannella ha detto si può fare qualcosa. Tuttavia, se voi avete letto, chi sta nelle carceri credo abbia letto attentamente per vedere soluzioni qua e là, molti detenuti ci hanno scritto, si hanno anche detenuti e detenute, si hanno anche, come dire, illuso, d'altronde più che illusione la speranza, e se uno sta dentro al carcere non può che coltivarla, la speranza è un modo per mantenersi in vita. Avevano maturato la speranza che fosse possibile, visto che molti si erano pronunciati, parlamentari, dicendo che questa condizione delle carceri è inaccettabile, così hanno detto proprio, quasi tutti hanno detto inaccettabile, poi per loro l'accettano, che qualcosa fosse in cantiere, un'amnistia, un indulto, uno sconto, qualcosa, invece assolutamente niente. Ma perfino qualcuno aveva proposto di dare le misure alternative in maniera automatica, così si eliminavano le code, tutte queste cose qui, nemmeno quella è passata. Tuttavia, quello che vogliamo sottolineare non è tanto i rimedi temporanei, appunto far uscire un po' di gente, c'è stato nel 2006 quell'indulto abbastanza grosso, non si dava da 20 anni in questo paese, nel 2006 si è dato, sono usciti 25.000 detenuti e detenute, quindi un grosso svuotamento, sono bastati 3 anni, nemmeno 2 anni e mezzo, si è di nuovo riempito il carcere. E non perché quei detenuti usciti hanno continuato a delinquere, anzi il contrario, pare che la gran parte delle persone uscite per indulto sono invece non hanno reiterato, diciamo, la violazione di legge. E il punto è perché, e qui arriviamo al punto centrale, tutti questi che si lamentano del carcere, se ne lamentano, fateci caso, rileggete attentamente, tante volte in carcere si conservano i giornali che parlano del carcere, perché uno se li vuole leggere può rileggere attentamente o far leggere a chi viene da un altro carcere o chi entra per poi discuterne insieme. Bene, rileggete attentamente, da nessuna parte, cioè ovunque, chiunque lo critica con vari diversi punti di vista, lo trattano come se fosse un evento pressoché naturale, il sovraffollamento, come se ci fosse stato un terremoto, ecco, che so, come il terremoto dell'Aquila, le cui soluzioni sono state tremende, però chiaramente il terremoto è stato un fatto naturale, non si poteva prevedere, perché poi al di là di tutte le discussioni che ci stanno è molto difficile, alcuni dicono addirittura impossibile prevedere i terremoti, così come lo tsunami, queste cose naturali. Dopodiché il problema casomai si pone sulle soluzioni da fare dopo che è avvenuto il fatto, però ne parlano tutti come se fosse un evento naturale, c'è stato questo terremoto, questo sovraffollamento, che facciamo, che non facciamo, chi propone delle cose intelligenti, chi non propone niente, chi propone delle stupidaggini. Però tutti quanti, se voi ci fate caso, vedono questo fatto del sovraffollamento, del problema che nelle carceri si vive, anzi si muore troppo, i suicidi sono tantissimi, morti anche per cattiva, per assenza di cure, sono tantissimi, la gente ne esce, e quelli che riescono a uscire ne escono devastati nella mente e nel corpo. Cioè tutti lo trattano come se è un evento purtroppo doloroso, naturale, e nessuno pone l'accento che se il carcere si è riempito così a dismisura, c'è forse qualche responsabilità di qualcuno. Ci sono delle leggi, quelle fatte nell'ultimo decennio, sono quelle le responsabili del grosso ingresso di persone in carcere. Negli anni 90, partendo da, vogliamo prendere gli ultimi 20 anni, in genere si prendono 20 anni per avere un quadro preciso, nel 91-92 erano 35.000 le persone in carcere, oggi sono circa 70.000, il doppio. Allora uno potrebbe dire: perché il doppio? Perché sono aumentati i reati. Non è vero assolutamente, i reati addirittura sono calati rispetto a quelli del 90. E allora qual è la risposta? E a questo nessuno affronta il problema. Il problema è che sono state, nel frattempo, in questi 20 anni, sono state predisposte delle leggi abiette, barbare, incivili, criminali, che hanno fatto sì che alcuni comportamenti che prima venivano o sanzionati per via amministrativa, oppure per nulla sanzionati, oppure semplicemente per con altri, cioè stavano sotto il codice civile e non sotto quello penale, sono state appunto introdotte delle leggi di estrema penalizzazione di comportamenti che prima non venivano sanzionati per via penale. Questo ha prodotto il grosso ingresso in carcere, quindi i reati sono diminuiti ma sono aumentati quei comportamenti ritenuti diciamo che ricadono sotto il codice penale. Prendiamo un esempio per tutti, prendiamo uno dei poi due esempi che chiariscono esattamente questa cosa. Due sono i grossi, diciamo, le componenti maggiori della popolazione carceraria. Uno è i tossicodipendenti e l'altro sono gli stranieri. Quali sono i reati gravissimi di cui sono macchiati queste persone? Assolutamente nulla. Non fanno, questi gruppi di persone, chiamiamoli tossicodipendenti e gli immigrati, non fanno niente di diverso di quello che facevano prima di 20 anni fa, di 15 anni fa, di 10 anni fa. Il problema è che i loro comportamenti sono stati, per una stupidità, da un punto di vista logico è stupida e criminale la mente di chi ha partorito queste leggi. Ci riferiamo alla Turco-Napolitano in primo luogo, alla Bossi-Fini in secondo luogo, che ha aggravato quella barbarie che era appunto già la Turco-Napolitano, oppure sul settore delle droghe, la Fini-Giovannardi e tutto quello che consegue. Dei comportamenti, per esempio l'immigrazione chiamata clandestina, ma non è, cioè l'immigrazione è quella, l'immigrazione è sempre stata da tempi immemori clandestina, non è che dall'antichità, quando le popolazioni si spostavano da una parte all'altra, chiedevano il permesso a qualcuno, quindi l'immigrazione è per natura stessa clandestina, quindi è un aggettivo cretino anche questo, proposto dai quei politici imbecilli di uno squallore unico e riprodotto da quella genia di persone incapaci di intendere di volere che sono i giornalisti che ripetono quello che gli dicono le veline dei politici. Se gli dicono che gli asini volano, vedrete che i giornali sono pieni di affermazioni che gli asini volano, perché questo fanno i giornalisti. Bene, è uscito fuori appunto la immigrazione clandestina. L'immigrazione per sua natura è clandestina, non c'è una un'immigrazione non clandestina, vuol dire che non è conosciuta a priori, ed è ovvio che è così, no? Non può essere diversamente da dai tempi da quando è sorta l'umanità fino a che si estinguerà, perché prima o poi, se continuiamo, si estinguerà. L'immigrazione non può che essere, è diventato una cosa normale. E ricordiamo, tanto per far, visto che siamo in questo paese, non per nostra scelta ma per caso, siamo nati in Italia. Bene, questo paese ha circa, quanti, mi pare, non so, circa, si avvicina a 60 milioni di persone che vivono in questo paese, che si definiscono italiani e ci hanno scritto sui loro documenti italiani, nazionale italiana. Bene, ve ne sono 25 milioni di persone nate in questo paese, chiamate italiani, sono immigrati in altri paesi. Questi poi a loro volta hanno filiato, attualmente sono 60 milioni. Gli italiani, le persone, i gruppi, diciamo, familiari nati in questo paese che sono, vivono all'estero. Quindi c'è un'Italia molto più numerosa fuori che non qui. Sapete qual è? Lo sapete tutti, penso che lo sanno tutti, ormai è diventata una chiacchiera da bar anche. Qual è la città italiana, la città non italiana, ma la città più piena, più numerosa di persone italiane? Non è Roma, che ne ha 2,5 milioni, non arriva a 3 milioni di italiani che vivono in questa città. No, è San Paolo del Brasile, dove ci sono circa 6 milioni di italiani. E non parliamo dell'Argentina, non parliamo del tutto il Nord America, l'Australia, insomma, ed anche il Nord Europa. Quindi 25 milioni di persone italiane sono immigrate, quindi ciascuno di noi ha un parente, uno zio, un nonno, qualcuno che infatti è immigrato. Non ce n'è nessuno che non le ha, non dite bugie, che nessuno, quindi siamo un popolo di migranti e tutti clandestini, perché nessuno ha chiesto il permesso di... vabbè, questo per dire, l'immigrazione clandestina è un'invenzione appunto della criminalità statale, che da un po' di tempo si è insediata ai poteri di questa Europa, e quella è diventata un reato, e quindi si riempie, no, un fatto che, se vogliamo, può essere soltanto amministrativo, no? Tu non hai il permesso, vediamo, allora regolarizziamo, oppure no, eccetera, è diventato un fatto penale. L'altro grosso gruppo di popolazione sono i tossicodipendenti. I tossicodipendenti, perché improvvisamente è diventato, nell'arco degli ultimi decenni, via via lo spaccio di sostanze stupefacenti è diventato via via più grave, fino a che anche il consumo è diventato un reato. A questo proposito è bene ricordare, anche come abbiamo fatto sull'immigrazione, ricordare un precedente, perché, come dire, gli umani hanno, non sono geni, Porelli, hanno sempre sbagliato tutto, però hanno avuto questa caratteristica nel passato di tener conto degli errori che facevano, e tenendo conto degli errori che si fanno, penso sia andato avanti, insomma, producendo anche delle cose egregie, ma tenendo conto, appunto, riflettendo sugli errori fatti. Appunto, come non lo si è fatto sull'immigrazione, non lo si è fatto anche sul proibizionismo. Ricordiamo tutti, perché ci sono stati tantissimi bei film, e poi la migliore musica è venuta da là, il periodo del proibizionismo americano, che si dice proibizionismo, ma si riferisce al proibizionismo dell'alcol. Quel provvedimento, che era il 18° emendamento, chiamato appunto il 18° emendamento, che dal 1919 al 1933 ebbe luogo negli Stati Uniti d'America, quindi per ben 14 anni. C'era un fatto, perché l'alcol, in effetti, a differenza degli altri stupefacenti, produce veramente dei comportamenti che possono essere problematici per la società, perché, come dire, l'alcolizzato spesso è violento, può produrre danni, eccetera. Insomma, lo sviluppo delle persone che, insomma, erano in preda dell'alcol aveva prodotto nei primi anni del secolo scorso, del 1900, in America un grosso movimento, soprattutto formazioni, diciamo, religiose, altro che moraliste, altro, che dicevano bisogna fermare questa piaga, e pensarono nel modo più cretino, perché già allora molti gli dissero che era cretino il proibizionismo dell'alcol. Bene, nel 19 fu fatto questo 18° emendamento per impedire la circolazione dell'alcol. Passano gli anni, il primo prodotto che si realizza è che si sviluppa il commercio clandestino di alcol. Le mafie fanno affari d'oro. Grazie al proibizionismo, le mafie, per esempio il famoso Al Capone, che tutti i film ce l'hanno raccontato tantissimo, che era una piccola organizzazione che così gestiva case da gioco, un po' di prostituzione, poca altra cosa, si vide regalato questo grosso affare e fece affari d'oro, al punto tale che la mafia diventò quella mafia che detta Cosa Nostra, questa di Al Capone, che poi ha subito tantissime scissioni, al punto che si sono prodotte decine e decine di associazioni mafiose, casomai l'una in guerra con l'altra, che gestivano questo grande affare che era il commercio clandestino dell'alcol. Chiaramente si sviluppò di molto il consumo dell'alcol rispetto a prima, cioè dal 19 rispetto agli anni precedenti il consumo dell'alcol aumentò di molto. Bene, insomma, per farla breve, va avanti, passano 10 anni, a un certo punto, dopo 10 anni, in America, che ci hanno tutti visti questo mondo, però sono un po' più attenti alla realtà di quanto siamo da quest'altra parte dell'oceano, hanno detto, vabbè, proviamo a vedere che 10 anni di proibizionismo che effetto hanno prodotto. Intanto, a quel punto, il presidente di allora, Hoover, nonostante già da parte della società erano venute molte richieste che avevano verificato il danno enorme che provocava il proibizionismo alle persone e alla società nel suo insieme e sviluppava le mafie, però Hoover non ebbe il coraggio, perché era un fatto di come adesso, no? Tutti sanno che si sviluppa tanto la criminalità organizzata col proibizionismo delle sostanze stupefacenti, però nessuno ha il coraggio di fare un passo, di dire no, leviamo il proibizionismo, perché si hanno paura di perdere consensi. Così fece Hoover, ebbe paura di questo, nonostante già fossero molte le pressioni che venivano. Lui nominò una commissione parlamentare, anche di esperti, la commissione Winkersham, che lavorò per alcuni anni, e le conclusioni di questa commissione furono tremende. Che cosa disse la commissione? Allora, questi punti: il proibizionismo dell'alcol non ne ha impedito il consumo, primo punto, non ha impedito la vendita della sostanza, quindi dell'alcol, ha fatto aumentare il consumo dell'alcol, ha fatto aumentare il tasso di vendita e di diffusione della sostanza, ha creato un mercato nero gestito dalla criminalità organizzata e ha innalzato di molto i livelli di violenza, ha reso criminali dei cittadini che avevano un vizio privato, cioè di bere l'alcol, l'ha fatti accedere al mercato nero, per cui spesso appunto consumatori diventavano anche spacciatori, perché l'alcol clandestino costava molto, quindi ha costretto degli onesti cittadini, questo lo dice la commissione Winkersham, non è che lo diciamo noi, degli onesti cittadini a diventare dei delinquenti, dei criminali, insomma, ha fatto moltiplicare il prezzo dell'alcol, ha fatto nascere l'adulterazione, la mancanza di controlli qualitativi, molte persone quindi sono morte perché l'alcol in circolazione spesso era appunto non controllato da nessuno, perché clandestino, e quindi provocava malattie perché era adulterato, è costato quindi la vita a migliaia e migliaia di persone innocenti, ha permesso di creare imperi criminali in grado di concorrere quanto a potere con i governi basati sugli introiti del contrabbando. Questi punti che la commissione di Winkersham propose, però Hoover non se la sentì, per non perdere il voto di 4 sciamannati, che purtroppo sono tanti, e ci vorrà il nuovo presidente Roosevelt, che sappiamo per molte cose fu un po' più, poi c'era stato nel frattempo anche la crisi del 30, quindi aveva scombussolato un po', aveva messo in moto la necessità di fare passi nuovi, insomma sta di fatto che il 5 dicembre del 1933 Roosevelt abolisce il proibizionismo, cioè toglie quella regola e l'alcol verrà regolarmente somministrato. A quel punto si abbassa il consumo di alcol, chiaramente si abbassa di molto il prezzo, molte associazioni criminali entrano in crisi, si sciolgono, chiaramente si riduce di molto l'introito di moneta liquida alle banche, quindi molte banche dovranno spostare i loro affari altrove, si crea un po' di problema sul mercato del denaro liquido, forse è questo il motivo che i nostri governanti mantengono in piedi il proibizionismo. Comunque un elemento centrale, ci racconta qui la storia del proibizionismo americano, allora ci fu un'associazione di mamme, guidata da una certa Pauline Saben, di media borghesia, famiglie per bene, mamme per bene, che avevano visto i loro figli appunto buttarsi nel gorgo del malaffare, perché avevano il vizio dell'alcol e non potevano che recuperarlo per via extralegale, e quindi entravano nel giro della malattia. Bene, loro allora, però, queste mamme, forse allora non c'era la televisione, questo è il vantaggio, non si può dire che le mamme americane fossero più intelligenti e sveglie delle mamme europee, o in particolare di quelle italiane, che non hanno ancora fatto un movimento di questo genere, perlomeno così di massa. Beh, dissero, fecero un grosso movimento e parteciparono alla campagna di Roosevelt, alla campagna elettorale di Roosevelt, imponendo a lui di dimettere nella campagna elettorale, come promessa per le elezioni, l'abolire il proibizionismo, perché avevano fatto un'analisi loro anche appunto a pari della commissione di Hirkesham, che il proibizionismo appunto portava in galera anche e rovinava i propri figli, che erano semplicemente un semplice vizio che potevano però gestire tranquillamente se l'alcol fosse regolarmente in vendita alle vinerie e ai bar. E loro appunto, considerate che però Roosevelt, quando fece la campagna elettorale, diede ascolto a questa associazione di mamme dirette da questo personaggio importante, la Pauline Saben, nonostante gli esperti dicessero guarda che è pericoloso perché perderai voti, invece li vinse tranquillamente e abolì e tenne fede a questa sua abolizione. Bene, questo per dire che insomma i punti sono gli stessi per tutte le altre sostanze. C'è da dire che però le mafie subito dopo chiaramente tornarono all'attacco. Dicembre 33 si finisce il proibizionismo dell'alcol, quindi è la fine del 33. Passano alcuni anni, le mafie vengono sotto, hanno i loro rapporti con i politici, insomma passano soltanto due anni in realtà, e si comincia a parlare che bisognerebbe rimettere il proibizionismo, ma non più sull'alcol ma su altre sostanze. È del 35 che si cominciano a discutere, quindi appena un anno dopo, dicembre 33, quindi siamo al 34. Il 34 passa indenne, le mafie insieme ai banchieri elaborano la necessità di avere denaro fresco. Il 35 comincia la battaglia parlamentare a fare proposte di legge, il 36 si fa una battaglia, poi il 37 si mette il proibizionismo della cannabis. Quindi, come vedete, è proprio chiaro il percorso. Mafie. Le mafie avevano perso un sacco di soldi con la fine del proibizionismo, avevano bisogno di rifarsi, le banche pure, il rapporto banche-mafie. Forse qualcuno non sarà d'accordo, ma sono più o meno due facce della stessa medaglia, diciamo così. Alcuni dicono che sono la stessa cosa, però va bene, è importante che insomma, hanno, diciamo che hanno uno stretto rapporto tra di loro, perché le banche e le mafie vivono entrambe sul denaro liquido, su quello, non sui pezzi di carta, su proprio il denaro liquido, quindi hanno questo che viene dallo spaccio in genere delle sostanze proibite. Ecco, il proibizionismo è quindi la cannabis nel 37, da lì si sviluppò poi in tutta Europa, in tutto il mondo, la proibizione della cannabis, eccetera, eccetera, e cominciò a far circolare milioni di denaro fresco nelle casse della mafia e delle banche. Ecco, questo per dire, questo, allora, il problema è molto semplice, non è che il sovraffollamento è un fatto, un terremoto, è uno tsunami a cui pure questi, uno potrebbe criticare i politici perché non sono in grado di mettere di riparare un danno che è avvenuto nella società, no? Come ecco l'accusa che uno gli dà per il terremoto dell'Aquila: c'è stato il terremoto dell'Aquila, una cosa, un evento naturale che non si poteva prevedere, però poi gli interventi dello Stato e del governo sono stati deficitari, addirittura devastanti. Qui no, qui non è manco, qui proprio è stato voluto l'incremento delle della popolazione detenuta è stato voluto, quindi è inutile piangere sul fatto, cioè anche per esempio i radicali che dicono una cosa giusta e bisognerebbe fare amnistia, ma più che amnistia e indulto fateli pure, ma non è quello il problema è depenalizzare da subito una serie di per esempio depenalizzare il consumo, il piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, l'immigrazione, già questo consideriamo che sono il 40% di immigrati in carcere, il 30% di tossicodipendenti, 40 più 30 è il 70% della popolazione detenuta. Volete fare un calcolo, sono 69.000, 68.000 detenuti, fa il 70%, boh, non ho qui, insomma, immaginate, più di due terzi, quindi sono tantissimi, ne rimarrebbero 15.000, sarebbe, seppure volessimo mantenere la galera. Per cui, come vedete, è un problema. Prima di fare uno sciopero della fame, quindi io inviterei quelli che fanno tutte queste belle cose, sciopero della fame, visita le carceri, prima di dire bisogna riparare il sovraffollamento, ed è giusto che lo dicano, però prima di dire chi è stato, che perché avete portato a questo non è stato un terremoto, non è stato un evento naturale, perché avete portato le carceri a queste condizioni, perché avete prodotto delle leggi che sono criminogene, cioè producono reato laddove c'era un comportamento poteva essere accettato o meno, da questo è il punto centrale. Quindi c'è questo elemento gravissimo che viene sottaciuto apposta. A noi non ci piacciono tutte queste lamentele perché sono lamentele non genuine, sono più o meno degli imbrogli di chi non vuole fare i conti con quello che realmente è. E allora, le manca un quarto alle 16, noi 15 minuti alle 16. Sono arrivate due lettere dal carcere e noi diamo ovviamente voce a coloro che vogliono urlare le loro ragioni, ovviamente stando in carcere non trovano parole. E questa lettera, infatti la prima che leggiamo, si intitola proprio così, Solo parole. Carissimi amici miei, lo scorso anno ho avuto la fortuna di incontrare un amico di sventura che mi ha parlato di voi e tutta la passione che mettete nel darci una voce. Purtroppo in questi posti, si riferisce al carcere, anche la parola viene tolta, eppure ne avrei tanto bisogno, anche se non è il primo reato e non è la prima volta che sono in carcere. E poiché sono omosessuale e sieropositivo, è tutto più pesante. Non mi trovo in una sezione di omosessuali, ma ahimè in un miscuglio di persone con reati sessuali. Vi sono pedofili, tra parentesi come se l'omosessualità di per sé fosse reato, collaboratori, insomma in una di quelle sezioni denominate protette. E nonostante le mie numerose domande di trasferimento e di avvicinamento colloqui, mi vengono fatte tante promesse che col passare del tempo mi accorgono che restano solo parole. Sono in carcere perché mi facevo e per procurarmi la sostanza ho iniziato a spacciare. Maledetto quel giorno che ho provato la droga, mi ha fatto perdere la dignità di uomo e mi sono procurato una patologia grave. Nonostante sono in termini di legge, anche l'ingresso per per entrare in una comunità, anche l'ingresso in una comunità terapeutica mi è stato negato perché la SL di Napoli 1 non ha fondi per pagarmi la retta. Lì, se fosse andato in comunità, avrei potuto fare un lavoro introspettivo, sia per scacciare dalla mia vita definitivamente la droga, sia per accettare fino in fondo il mio status di persona malata. Solo parole. Ma amici miei, non pensate che mi dia per vinto. Uscirò nel 2014 e nonostante tutto amo ancora la vita. Amo il sole, il mare e soprattutto la mia famiglia, che nonostante la lontananza, sono di Napoli, e l'età avanzata dei miei genitori, non mi ha mai abbandonato e pretendo il tempo per ripagarli. Li amo e sono gli unici a darmi solo parole, però d'amore. Purtroppo dove mi trovo non prendo la vostra frequenza, ma comunque grazie per la voce che ci date, per tutto quello che fate per noi. La vostra è un'oasi nel deserto e non sono solo parole, ma molto di più. Mi piacerebbe ricevere una vostra risposta e tenere una corrispondenza epistolare con voi. Mi sarebbe di aiuto. A presto. Lui si chiama Carlo e scrive da un carcere al carcere di Teramo. Ora, ecco, quei detenuti e le detenute che chiedono esplicitamente di avere una corrispondenza, noi oltre a leggere le loro lettere lanciamo anche l'appello. È una cosa molto importante per chiunque mantenere corrispondenza con chi sta in carcere. È il modo migliore per conoscere il carcere, avere corrispondenza con chi sta dentro. Ci si possono chiedere cose precise, vivere le tensioni del carcere, della mancanza di libertà, insieme a colui o colei che le subisce, che le vive ora per ora, momento per momento. Quindi se qualcuno o qualcuna volesse scrivere a Carlo, noi non diamo, ovviamente non è che non possiamo dare il suo indirizzo per radio, però potete, se siete interessati, scrivere all'indirizzo di questa trasmissione, che è La Conta, tutto attaccato, laconta@ondarossa.info, e dire i motivi con cui volete scrivere per esempio a questa persona. Questo si chiama Carlo e noi vi manderemo per l'indirizzo, così potete mettervi in contatto, oppure telefonate al 491750, però quando c'è questa trasmissione. L'altra lettera è questa. Ciao amici di Radio Onda Rossa, il mio nome è Eva, Evo. Sono nato ad Anzio, quindi nato qui vicino a Roma, in provincia di Roma appunto. Sono detenuto dal 16, sono lettere scritte in corsivo, quindi a volte le ho. Allora, il mio nome è Eva, appunto, sono nata ad Anzio, in provincia di Roma, sono detenuta dal 16 maggio del 2010 e vengo dal carcere di Rebibbia. Sono stata trasferita qui a Teramo il 15 di gennaio. Mio nipote compiva un anno, è il figlio di mia figlia, Consuelo. Ho un definitivo di 9 anni, 8 mesi e 11 giorni, quindi deve, da quando entra in carcere dovrà scontare 9 anni, 8 mesi e 11 giorni, ovviamente con la liberazione anticipata che speriamo che ottenga. Qui a Castrogno, il carcere di Castrogno, si sta male. Siamo sempre diverse, io non faccio colloqui da tanto tempo. Qui ho l'agenda del 2011 e alcuni quaderni che mi avete inviato quando stavo a Rebibbia, il numero 3, il 5 e il 6. Mi piacerebbe che mi inviaste anche l'agenda del 2012 e i quaderni, se non vi dispiace, ovviamente, chiaramente non solo non ci dispiace, ma ci fa piacere inviarla. Ho chiesto l'avvicinamento per colloqui a Rebibbia almeno 3 mesi fa, ma niente. Per vedere appunto i miei figli e la nipote, il mio nipote che nel frattempo è cresciuto. Invio i miei più cordiali saluti, aspetto notizia, ciao da Eva. Ecco, queste sono le corrispondenze più recenti. Se appunto volete mantenere una corrispondenza col carcere, nel tempi passati, negli anni passati, nei decenni passati, la corrispondenza tra persone fuori, compagni e compagne, non solo compagni e compagne, anche persone che avevano interesse, se non altro una curiosità di conoscere che cos'è il carcere, quindi oltre alle letture dei libri sul carcere e ascoltare le trasmissioni sul carcere, eccetera, mantenevano una corrispondenza con chi stava dentro, e questo fatto ha prodotto molta conoscenza e coscienza di quello che è la brutalità del carcere, ha permesso che poi molte persone di qualunque provenienza poi si schierassero a favore e in solidarietà con la lotta dei detenuti per fare in modo che questa andasse avanti, e si è realizzato un periodo di grandi lotte interne con solidarietà esterna, insomma si è messo in luce fortemente che cos'è il carcere in questo paese, ma è successo anche in altri paesi, e questo fatto quindi è molto importante, le corrispondenze tra dentro e fuori. Allora, è una conferma a quanto diciamo prima, che il problema non è tanto che aumentano i reati e quanto appunto che ci sono state fatte delle leggi. E le leggi sono particolarmente criminogene, cioè che fanno diventare crimine dei comportamenti che prima erano comportamenti semplicemente accettabili. E poi soprattutto c'è un altro elemento, no? Che il legame tra cosiddetto il carcere e la realtà economica esterna, la realtà sociale, e che ha un rapporto molto stretto e molto intenso, cioè è chiaro che il peggioramento delle condizioni di vita si ripercuote su poi la propensione a fare alcuni tipi di reati, così chiamati, attività extralegali, per dirla in maniera più pulita, che la parola reati è una parola veramente che non dice niente. Sono attività extralegali, cioè non contemplate, anzi non contemplate dalla legge, che la legge addirittura relega. La legge però è una cosa che si fa e si può cancellare, sono alcune decine di persone, chiamati parlamentari, che hanno la possibilità di fare una legge o anche di cancellarla, quindi che una cosa sia legale o meno legale dipende da quel paio, 200-300 persone che decidono da un giorno all'altro, possono decidere, per esempio, domani mattina, che come hanno deciso un giorno, dalla sera alla mattina, che una cosa era diventata illegale, quindi perché hanno fatto una legge, quel comportamento non è diventata illegale, oppure possono cancellarla e non è più legale, non è più illegale. Comunque questa è comparso un articolo sul Corriere della Sera il 28 agosto, qualche giorno fa, 3 giorni fa, è l'intervista a un presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio. Lui si chiama Rosario Vivarelli, è stato dirigente della Polizia, dell'Antimafia e dell'Anticrimine, e quindi vabbè, però adesso dirige questa cosa. La domanda che gli hanno fatto, dice: questa crisi che sta avvenendo produce degli effetti dal punto di vista delle attività appunto extralegali? Lui dice sì, li produce, però attenzione, dunque dai reati del 2010 chiaramente rispetto a quelli degli anni precedenti, per esempio gli omicidi sono nettamente diminuiti, erano 40 nel 2009, sono 21 nel 2010, quindi grossi reati contro la persona, e anche le rapine segnano un calo del meno 5,9%, quindi il 6% in meno, e anche minore rispetto a quelli precedenti. Però invece sono in aumento le lesioni verso le persone, quindi gli atti di aggressione, percosse, le minacce, le ingiurie, i danneggiamenti, e che fa dire anche al cronista che intervista queste persone? C'è una rabbia, un'insofferenza, una difficoltà a vivere, perché appunto non sono i grandi reati, omicidi, rapine, ma prevalentemente appunto furti, lesioni, percosse, minacce, ingiurie, danneggiamenti. Questi sono i cosiddetti le attività extralegali in incremento. Perché tutto ciò? Vabbè, qui adesso non è che è facile trarre un giudizio. Secondo appunto Vivarelli, e anche l'intervista, dice c'è un'insofferenza, la situazione solo rispetto alla regione romana, alla regione Lazio, quindi a Roma il circondario, il grosso ovviamente a Roma, però tutta la regione Lazio, questi sono i dati della regione Lazio, non di tutta Italia. Però appunto il dato è che secondo lui, insomma, dice che non c'è un incremento della criminalità, della malavita, eccetera, ma c'è una insofferenza di vita, un malessere di vita che si manifesta in queste cose. Il fatto che i danneggiamenti, le ingiurie, le litigate tra persone siano, e anche i furti siano in aumento, appunto, mentre invece i grandi reati come omicidi e rapina siano in calo, la dice tutta sul fatto che non è un problema di criminalità organizzata o altro, ma di disagio, insofferenza, come la definisce lui, delle persone sottoposte a una situazione di crisi in cui chiaramente non ci si trovano bene. E allora, sono le 16 in punto, quindi siamo arrivati al termine di questa puntata, questa trasmissione. Avevamo altre cose da raccontarvi, ma ce le racconteremo la prossima trasmissione. Intanto vi ricordiamo che appunto che se qualcuno o qualcuna vuole intrattenere una corrispondenza con un detenuto o detenuta, ci può scrivere all'indirizzo di questa trasmissione, che è la conta, tutto attaccato, minuscolo, la conta, @ondarossa.info, o cui indirizzo ci si può scrivere anche per tutte altre cose, per chiedere informazioni se qualcuno ha necessità di conoscere qualcosa di più sul carcere, per discutere con noi, per criticare, per proporre, per qualunque cosa che è inerente ovviamente ai temi che tratta, di cui tratta questa trasmissione. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, ora della conta che si fa nelle carceri e della trasmissione che appunto ha preso il nome della conta, per significare che le persone più contate, che sono appunto chi sta in carcere, ricordate le conte sono 4 al giorno, nelle 24 ore si fanno 4 volte, chi sta in carcere viene contato ben 4 volte, e sono le persone che contano di meno perché il loro parere non viene mai ascoltato. Questo è, diciamo, il paradosso che volevamo segnalare con questo titolo, La Conta. Sono le 16, un augurio di buona libertà da raggiungere al più presto per coloro che ci hanno ascoltato e per tutti coloro che stanno nelle carceri di questo paese e anche di tutto questo globo terracqueo. L'appuntamento appunto a mercoledì prossimo. Buona libertà per tutti e tutte. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò peccare. Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare e ai sogni c'è un limite, te lo dai il giudice, il tempo che passa e secondino è grassa. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai. Soffi per droghe attesa, chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa. Scuola di vita è il pesce più grosso che mangia il più piccolo, la legge del mondo che gira con il piombo. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò beccare. Tempo che fai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che fai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che fai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che fai, dimmi dove vai, non ritorni. Imparerò un mestiere che, perché no, non mi farà marcire. Quando uscirò sarò un bravo carabiniere, un politico imprenditore, la mia tendenza criminale diventerà legale. dimmi dove vai, non